GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Grave incidente sul lavoro alla Fincantieri di Monfalcone. Un operaio bengalese di 23 anni è stato travolto da una passerella caduta da una nave in allestimento, ricoverato in prognosi riservata a Cattinara. Alle 13 i sindacati incontreranno l'azienda, proclamato lo sciopero immediato. Piogge bora forte a Trieste, neve sul Carso, è arrivato il fronte freddo proveniente dal nord Europa, l'allerta meteo gialla con possibili formazioni di ghiaccio sul suolo durerà fino al pomeriggio. La sanità regionale ha tante risorse, ammette la CISL, che chiede una riorganizzazione del modello territoriale e ipotizza la specializzazione di alcuni ospedali e la loro trasformazione in case di comunità. Vertenza Electrolux sugli ultimi sviluppi dopo il piano di riassetto e gli esuberi comunicati dall'azienda anche per il sito di Porcia. Si esprime oggi il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. A Pordenone 700 studenti delle scuole superiori possono esplorare il mondo accademico vivendo a contatto con i giovani universitari, assistendo a lezioni di varie discipline che potrebbero poi indirizzare i loro percorsi formativi. Una voglia di ballare che faceva luce, il libro scritto da Beppe Carletti, fondatore insieme al compianto Augusto da Olio dei Nomadi, che sarà presentato questa sera al Teatro Pasolini di Casarsa, ore 20:30. Beppe Carletti ripercorrerà attraverso le pagine del suo libro. Le 12:31 minuti e 40 secondi, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Lorenzo Ghelenzoni, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 19 gennaio. Una giornata caratterizzata quindi dal forte maltempo, così come era previsto dall'allerta gialla che sarà in vigore fino alle 16, con il ritorno in grande stile della neve, del ghiaccio e della bora, tra le probabili cause di un grave incidente sul lavoro che è accaduto questa mattina nel cantiere navale della Fincantieri a Monfalcone, dove un operaio bengalese di 23 anni è stato schiacciato da una impalcatura che gli è crollata addosso. Stava lavorando sulla pedana che si è sganciata dalla nave, probabilmente a causa del vento forte. Le sue condizioni sono molto gravi. Alle 13 i sindacati incontreranno l'azienda, proclamato intanto lo sciopero immediato. Una passerella agganciata alla nave crollata sopra un operaio di 23 anni bengalese dipendente di una ditta d'appalto è accaduto questa mattina al cantiere navale Fincantieri di Monfalcone. Il giovane è rimasto intrappolato sotto all'impalcatura. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno impiegato 30 minuti per estrarlo. Le condizioni sono apparse subito gravi: trauma cranico e toracico, intubato sul posto, è stato trasportato in codice rosso a Cattinara, è in prognosi riservata. L'attività del cantiere si è subito interrotta, squadre di rinforzo dei vigili del fuoco sono arrivate da Gorizia e Trieste, sommozzatori compresi, perché si è temuto che qualche persona fosse finito in acqua, solo in via precauzionale, finora assolutamente no. Noi siamo qui con Andrea Oliar dell'RSU, della WILM. Le chiedo, tanta preoccupazione questa mattina, lei è accorso subito sul posto e di fatto la situazione è apparsa subito grave. La situazione è apparsa subito grave perché, vedendo appunto la scena, abbiamo visto subito, sapevamo che c'era una persona sotto, le voci giravano che potevano esserci di più, vista anche l'ora, comunque sembra che sia solo una persona. Precauzionalmente stanno verificando che non c'è, ma dalle prime conte sembra di no, quindi aspettiamo notizie. Avremo nel corso della mattinata una riunione in direzione per capire un po' le dinamiche, perché nessuno riesce a capire. Ma davvero può essere stato il vento? Per il momento l'azienda non vuole dare alcuna comunicazione ufficiale, si parla però di un vento molto forte, è possibile che porti giù una passerella? Ma incidenti di questo tipo qui non li abbiamo mai visti, insomma la bora soffia sempre. Succede qualche struttura, ma quel tipo di struttura là è anomalo che succede, perché è agganciata da una parte dall'altra. Quindi aspettiamo, capiamo un attimo le dinamiche e vedremo insomma quali sono state le cause. Sciopero per l'intera giornata, tutti hanno aderito. Come Fin Fin Wim abbiamo subito proclamato lo sciopero, il cantiere si sta vuotando, stanno uscendo anche le ditte di appalto naturalmente. Sì, la riuscita dello sciopero c'è, ma la cosa più importante, diciamo, che si risolva la questione del ragazzo. Monfalcone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E allerta gialla fino alle 16 di questo pomeriggio, diramata dalla Protezione Civile per la zona di Trieste del Carso per caduta di neve a quote anche basse, formazione di ghiaccio al suolo e vento sostenuto e freddo da nord-est, bora che sulla costa soffia con raffiche oltre i 100 km orari, e col maltempo non sono mancati i disagi alla circolazione. Il Carso è sotto la neve, tutta l'area è sferzata dalla bora che ha superato i 100 km all'ora. Per Trieste, spiegano i meteorologi dell'ARPA regionale, è la prima fase davvero invernale, ma il maltempo ha colpito tutto il Friuli Venezia Giulia, tanto che la Protezione Civile aveva dichiarato l'allerta gialla fino alle 16. Il fronte freddo proveniente dal nord Europa si è concretizzato con venti gelidi e precipitazioni e la pioggia della notte si è trasformata in neve. In montagna nevicate nella norma sul versante occidentale, mentre sono molto più abbondanti sulle Giulie. In quota gli accumuli sono intorno ai 20-30 cm, mentre a fondovalle si superano i 10, come a Tarvisio, dove si va per i 15 cm. Una situazione che non ha spaventato gli sciatori, tutti aperti i 6 poli sciistici della regione. In centinaia sono sulle piste dello Zoncolan, dove si tengono le gare fisse giovanili, e a Tarvisio si contano circa 1000 presenze. Resta chiusa Sella Nevea la funivia Funifor, che collega il rifugio Gilberti a Sella Golovez per il rischio di distacchi improvvisi di neve. Sulla costa la neve imbianca tutto il Carso e le zone più alte di Trieste e ha cominciato ad attenchire sopra i 200 metri. Da tutta la giornata soffia bora forte che ha toccato i 105 km orari in città. Sono diversi i danni causati dal vento che riguardano soprattutto finestre e alberi. Uno è caduto lungo Viale Miramare schiacciando un'automobile, ma per fortuna senza nessun ferito. Secondo le previsioni la situazione dovrebbe esaurirsi nelle prime ore del pomeriggio con la fine delle precipitazioni e un calo leggero del vento. Con l'abbassarsi delle temperature aumenta però il rischio di ghiaccio soprattutto lungo l'area del Carso. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E diamo uno sguardo quindi alle condizioni attuali del meteo. Il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate poco fa. A Trieste 3 gradi e 5 decimi, a Pordenone 5 gradi, a Gorizia 3, a Udine 2 gradi e mezzo. A Tolmezzo 4 gradi, a Tarvisio, Forni di Sopra, Sappada e sul Piancavallo meno 1 grado. Monte Zoncolan meno 7 gradi, sul Monte Lussari meno 8. A Grado 4 gradi, a Lignano 3 gradi e 5 decimi. Ma cosa ci attende dal punto di vista del meteo nelle prossime ore? Lo abbiamo chiesto al previsore dell'ARPA Marcellino Salvador. Una perturbazione molto veloce che ha cominciato a interessare dalla notte la regione, dapprima con la zona montana dove la quota neve si è rapidamente abbassata fino a 400-500 metri di quota, nevicata più abbondante sulle Alpi Giulie fino a fondovalle rispetto alla parte carnica e alle prealpi carniche, comunque è arrivata un po' dappertutto. È arrivata poi dalla mattinata anche la bora forte, in particolare in provincia di Trieste, che prima di mezzogiorno ha superato con le raffiche i 100 km orari. Le raffiche più forti sono intorno ai 105-110 km orari sulle rive. Con essa è arrivata anche la neve sul Carso, da prima sul Carso e poi anche in città, praticamente fino al livello del mare. L'attecchimento si ha già da qualche ora con accumulo di qualche centimetro sul Carso e poi in via minore andando verso, diciamo, la città e le parti basse della città, però oltre 200 metri diciamo l'imbiancatura sulla provincia di Trieste è quasi totale al momento. La perturbazione durerà ancora un paio di ore, quindi direi che intorno alle 3 circa dovrebbero smettere le precipitazioni su tutta la regione, anche le nevicate. Rimarrà un vento forte ma non fortissimo, quindi sarà un leggero calo del vento che rimarrà comunque sostenuto nella zona di Trieste e anche sulle altre zone, però appunto in calo, e quindi ci sarà un progressivo miglioramento della situazione. Rischio di ghiaccio su tutta l'area montana, ovviamente per tutta la notte, e anche sul Carso già a partire da queste ore per tutta la notte, in virtù delle temperature che rimarranno basse o si abbasseranno ulteriormente. Domani mattina valori previsti sull'area alpina tra meno 10 e meno 15 e sotto zero su tutta l'area del Carso. Weekend semplice, sole su tutta la regione, un po' di bora moderata domani, ma sono due giornate splendide dal punto di vista del tempo, non succede nulla, aria tersa, secca, giornate proprio belle, fredde al mattino, ma poi di giorno le temperature sono tutto sommato abbastanza abbordabili. Cambiamo argomento e parliamo dell'avvertenza Electrolux sugli ultimi sviluppi dopo il piano di riassetto e gli esuberi comunicati dall'azienda anche per il sito di Porcia. Si esprime oggi il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. Seppur consapevole delle difficoltà del momento, vede il bicchiere mezzo pieno il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, in merito al piano globale di riassetto Electrolux e agli esuberi comunicati anche relativamente al sito di Porcia. Il gruppo continua ad investire in Italia e nello stabilimento friulano, dice, e questo è un fatto significativo per il futuro della fabbrica nel territorio. La contrazione dei volumi è un fatto congiunturale. Io credo che Electrolux, che ha tra l'altro insediato creato proprio a Pordenone un centro di alta formazione e di ricerca, unico al mondo proprio sul lavaggio. Io credo che anche la ricerca, sviluppo e l'innovazione di prodotto potrà aiutare in qualche modo a favorire una sostituzione di prodotto. Gli unici interventi che vedo possibili da parte del governo incentivare, nell'ottica della trasformazione green, i nuovi elettrodomestici che consumino per esempio meno energia, meno acqua. Sono ottimista sul futuro, vedo la volontà di investire. Il 5 febbraio a Bologna, il prossimo confronto azienda-sindacati. Credo che si troverà un'intesa su come rendere il più possibile morbida questa uscita, soprattutto di coloro che non erano indicati, perché gli operai erano già previsti nei numeri che sono stati indicati. La questione riguarda i colletti bianchi, ma credo che anche lì si potrà gestire con sapienza e intelligenza, come ha sempre fatto l'Electrolux nelle relazioni industriali di questo territorio. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cooperativa Pescatori San Vito di Marano Lagunare, sulla strada del rilancio dopo l'avvenuto pagamento il 31 dicembre scorso dell'ultima rata del debito previsto dal piano concordatario che ha completato la complessa procedura attivata nel 2019. Inoltre, con effetto da gennaio di quest'anno, è in corso la procedura per rimuovere la notazione di impresa ammessa al concordato in continuità, e il Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione in equilibrio dopo anni di situazioni molto delicate sia sotto il profilo economico che finanziario. Nel frattempo, informa in una nota il presidente Sandro Caporale, dopo l'uscita dalla gestione diretta del mercato itticolo in grosso con l'inizio del 2024, la cooperativa ha avviato la vendita diretta di pesce fresco a cassette anche ai privati. Gli interessati possono effettuare i loro acquisti direttamente in via Serenissima 30 a Marano Lagunare, sede della cooperativa, nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle 16 alle 17. La sanità regionale ha tante risorse, ammette la CISL, che chiede una riorganizzazione del modello territoriale e ipotizza la specializzazione di alcuni ospedali e la loro trasformazione in case di comunità. Le risorse per la sanità in regione sono tante, ma siamo lontani dall'eccellenza. A dirlo la segretaria della CISL, Renata Della Ricca, che sottolinea anche l'impegno della regione con lo stanziamento record di 3 miliardi e 181 milioni di euro nella legge di stabilità per il biennio 2024-2026. Rimarcando le criticità che vanno dalla carenza di medici di base alle guardie mediche alla carenza di continuità assistenziale, la segretaria della CISL chiede un piano mirato per evitare che l'ingente dote finanziaria si disperda in rivoli e non sia funzionale alle priorità. In 10 anni, ricorda Della Ricca, la natalità si è abbassata del 30%, passando dai 10.000 nati nel 2012 ai 7.300 del 2023. Crescono invece gli anziani bisognosi di cure, solo ad oggi sono 38.000 non autosufficienti. Nonostante ciò, oggi conserviamo gli stessi punti nascita e non valorizziamo appieno i posti letto nelle strutture per non autosufficienti, dice. Ne consegue che dobbiamo cambiare subito il modello. In una regione di 1.200.000 abitanti abbiamo 14 ospedali, 2 IRCS e diverse strutture minori, ma secondo la CISL si potrebbe immaginare di specializzare alcuni ospedali trasformandoli in case o ospedali di comunità. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Con l'operazione Strade Sicure, 6.800 militari in arrivo nelle città italiane, di cui 385 solo in Friuli Venezia Giulia. Nello specifico, un totale di 185 a Trieste, più 20 rispetto al 2023, 110 a Udine, più 30, e 90 a Gorizia, più 30, che andranno ad affiancare gli agenti delle forze dell'ordine già presenti. A riferirlo il senatore della Lega Marco Dreosto, che parla di un importante segnale a tutela della sicurezza dei nostri territori, anche in seguito agli ultimi episodi di violenza avvenuti di recente a Tarvisio. Arrestato dalla polizia in flagranza di reato un 48enne accusato di un furto commesso nell'area di sosta del cimitero di Paderno, alla periferia nord-est di Udine. L'uomo, approfittando della presenza di alcune persone al Camposanto, ha infranto il cristallo anteriore della loro autovettura parcheggiata per sottrarre il borsello riposto all'interno dell'abitacolo, senza accorgersi della presenza sui sedili posteriori del veicolo della figlia minore della coppia che ha assistito alla scena. La bimba, visibilmente scossa, ha poi descritto scritto agli agenti le fattezze fisiche del ladro che si è nel frattempo si era dileguato e che è stato quindi rintracciato poco dopo e arrestato per furto aggravato. E ora torniamo a occuparci dei percorsi di studio degli studenti stranieri negli istituti tecnici specializzati come il Malignani. Entriamo all'ITS Malignani mentre Musa Abdel Sayed si sta cimentando con un macchinario utilizzato dall'Istituto Tecnico Superiore durante i campionati di automazione. L'anno scorso Musa ha fatto da apripista ad altri 19 connazionali egiziani che oggi sono tra i banchi nella sede di Feletto Umberto. Con il tempo Musa si è appassionato di automazione e in questo periodo è in stage in un'azienda. Botros Anna, suo amico, vorrebbe invece fare l'informatico. Sono il volto di quella tipologia di immigrazione qualificata formatasi all'estero, auspicata da tempo da industriali e aziende. La loro storia è emblematica, hanno studiato in un istituto tecnico salesiano del Cairo, in italiano, al Don Bosco. In Egitto, ci dice Musa, ci hanno preparato a capire la cultura, la storia, la letteratura italiana. Questo ha fatto la differenza. Dopo la maturità, sempre al Don Bosco, scuola che fa capo al Ministero degli Esteri, sono arrivati qui già con competenze medio-alte, indica Pari De Nardin, docente di automazione industriale. Ma non è stato semplice. 3 anni di burocrazia, la situazione che si sblocca quando gli ITS vengono riconosciuti nel 2022 come formazione di pari livello rispetto all'università. Servono diverse migliaia di euro a garanzia del loro sostentamento. Sono arrivate in soccorso aziende private offrendo loro borse di studio e le stesse aziende si sono attivate per l'alloggio in studentati privati. Ma a Udine non ci sono sufficienti contesti alloggiativi per studenti, afferma Paola Perabò, vicepresidente della Fondazione Miz Academy, e questo complica ancora di più l'iter. Fra 2 anni la quasi certezza di trovare lavoro e un visto studentesco da aggiornare. Dopo le circa 5 ore di lezione giornaliere, Musa nel tempo libero ama suonare il violino, a Botros piace invece giocare a calcio e guardare film in inglese. Chiediamo loro come mai sono così tanti minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia negli ultimi anni proprio dall'Egitto, ma non hanno la loro stessa fortuna di poter studiare in un ITS. Sono in cerca di opportunità lavorative, ci dicono. Qui ci sono e anche la qualità degli studi è migliore. Feletto Umberto, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone 700 studenti delle scuole superiori possono esplorare il mondo accademico vivendo a contatto con i giovani universitari e assistendo a lezioni di varie discipline che potrebbero poi indirizzare i loro percorsi formativi. Sono giorni di orientamento alla sede pordenonese dell'Università di Udine. 700 studenti delle scuole superiori in 4 giorni possono esplorare il mondo accademico che ogni anno richiama circa 350 nuovi iscritti. Per loro i corsi del Politecnico di Ingegneria e Architettura, del Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, del Dipartimento di Scienze Economiche e quello di Giurisprudenza, Medicina, Lingue e Studi Umanistici. Incontri che diventano vere e proprie lezioni, come quelle cui assistono i circa 1000 studenti totali della sede di Via Prasecco. Alla fine, ogni anno, sono 200-250 i laureati. In visita ragazzi del liceo Grigoletti, Mattiussi Pertini, Marchesini, di Sacile, ma anche giovani studenti delle scuole venete. Francesca Del Giudice, Università degli Studi di Udine. Un programma costruito nei contenuti con le scuole, andando a dare ai ragazzi quelli che sono i loro interessi. Quindi che cosa potrei effettivamente studiare se mi iscrivessi a un corso di laurea, per esempio, di lingue, di ingegneria, di banca e finanza, di scienze e tecnologie multimediali e di infermieristica. Quindi hanno sperimentato una vera e propria giornata all'università, con l'arrivo, con la navetta, con il vivere questa sede che è il centro polifunzionale di Pordenone. E tra una lezione e l'altra dell'università c'è stato anche un momento di coffee break con i tutor, quindi con degli studenti poco più grandi di loro, con i quali si possono confrontare e per esempio parlare del fatto di quanto possono essere difficili gli esami di giurisprudenza del primo anno. Chiederla a un docente a volte può fare un po' di timidezza, invece parlarne con un ragazzo poco più grande li mette a loro agio. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Presentati poco fa a Udine i nuovi mezzi a disposizione della Polstrada. 24 nuove auto, 18 per il Friuli Venezia Giulia, 6 per il compartimento di polizia stradale di San Donà sono state consegnate da Autostrade Alto Adriatico alla polizia stradale. Le nuove auto di ultima generazione sono destinate 8 alla polizia stradale di Palmanova, 5 alla sezione di Gorizia e altrettanto alla polizia stradale di Pordenone. La fornitura delle auto rientra nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la società concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico. il direttore generale di Autostrade Alto Adriatico, Giorgio D'Amico. Questo è l'obiettivo comune che abbiamo noi come concessionario e anche le forze di polizia, quello di migliorare attraverso un'attività di prevenzione e controllo la sicurezza dell'utenza autostradale. Auto provviste di dotazioni tecnologiche, meccaniche e infrastrutturali di altissimo livello. Investire nella sicurezza stradale passa anche da rendere il controllo della circolazione stradale sempre più avanzato, efficiente e sicuro. Auto che vedremo già all'opera nei 240 chilometri gestiti dall'ente. Dotazioni, come ha sottolineato il questore di Udine Alfredo D'Agostino, che hanno una doppia valenza: sicurezza per il personale della polizia e sicurezza degli utenti dell'autostrada. Strada. Giorgio Bacillieri, comandante compartimento Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia. L'allestimento richiesto anche da noi consente di avere a disposizione tutti quei dispositivi e quelle tecnologie importanti e fondamentali per svolgere servizio in un ambito autostradale diverso indubbiamente da quello della viabilità ordinaria. Mi piace ricordare anche lo strumento Top Crash, è un'asta satellitare che consente di rilevare gli incidenti stradali con grande precisione. Palmanova, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport basket, questa sera ci vi dà l'atteso derby di A2 tra la Gestecco e la Pallacanestro Trieste, in cerca di riscatto dopo la sconfitta con l'AP Udine, ma che sarà priva di Reyes, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio infortunato. Tra i friulani, la squadra di Vincent Cole coinciderà con l'esordio del nuovo acquisto Dorn Lamb, inizio del match alle 20:30 con apertura dei cancelli e biglietteria alle 19. Biathlon prende il via oggi la tappa italiana di Coppa del Mondo ad Anterselva, dove Elisa Vittozzi sarà impegnata nella 12,5 km femminile assieme all'esordiente Sara Scattolo, atleta ventenne di Fornia Voltri. La gara partirà alle 13:40 con diretta su Rai Sport. Debutta oggi il Trieste Film Festival, che nella giornata inaugurale propone un doppio appuntamento con l'ultimo film di Radu Jude, maestro del cinema romeno ed europeo, dal titolo Non aspettarti troppo dalla fine del mondo, alle 18 e alle 21 al Teatro Miela. E nell'ambito del Trieste Film Festival, il Deutsch Zentrum di Trieste, partner culturale del Goethe Institute, propone una conferenza sulla letteratura della ex DDR. Elisabetta Derme, giornalista e scrittrice, per anni corrispondente dalla Germania per il quotidiano Il Manifesto, invita a riflettere sulle particolarità, le contraddizioni e le potenzialità della vecchia Germania Est. L'evento intitolato Voci dall'ex DDR si tiene stasera alle 18 a Palazzo Gopcevic a Trieste, ma sentiamo Derme. Per questo incontro ho scelto 5 autori, 4 scrittori e un sociologo in realtà, nati tra il 1940 e il 1994, in modo da avere uno spettro molto ampio. Chi ha vissuto proprio la DDR fin dall'inizio, quindi il socialismo reale se l'è vissuto tutto, e chi invece è nato quando già era caduto il muro di Berlino. Sono Lutz Seiler, la scrittrice Helga Schubert, lo scrittore Lukas Reichler e la scrittrice Judith Schalansky e il sociologo Steffen Mau. La DDR è stato un paese regolato da un sistema sociale molto articolato e che, sebbene costrittivo di alcune libertà basilari come quella di espatriare, offriva ai suoi cittadini una serie di garanzie e di certezze che in realtà nessun sistema capitalista potrebbe mai assicurare, e quindi non stupisce che il filo rosso che unisce questi autori sia proprio nostalgia. La perdita delle sicurezze che poteva dare quel sistema, anche se pagate ad alto prezzo in termini di diritti individuali, ha creato questo sentimento, appunto, che ormai è codificato come nostalgia e che in realtà troviamo anche in tutti quanti i paesi che hanno conosciuto il socialismo reale. Ma tutto questo come si traduce nella Germania contemporanea del 2024? Si traduce in un disagio, un profondo disagio soprattutto nelle frange giovanili. È un'area dove si è affermata per esempio il partito dell'Alternativa per la Germania, un partito che cova al suo interno fazioni razziste, islamofobe, antisemite, xenofobe e identitariste. L'Anna Bolena di Gaetano Donizetti arriva sulla scena del Teatro Verdi di Trieste. L'apertura del nuovo anno sul palco del Teatro Lirico è affidata allo storico allestimento del regista britannico Graham Vick. La prima questa sera alle 20, poi in replica sino al 28 gennaio. Una voglia di ballare che faceva luce, il libro scritto da Beppe Carletti, fondatore insieme al compianto Augusto Daolio dei Nomadi, band che ha compiuto 60 anni con successi come Io Vagabondo, Dio è morto, Dove si va un giorno insieme. Questa sera Beppe Carletti sarà al Teatro Pasolini di Casarsa alle 20.30. A lui abbiamo chiesto se 60 anni fa avrebbe mai immaginato di avere una carriera del genere. Le chiedo, ma lei, prego, 60 anni fa se la immaginava una carriera di questo tipo? Assolutamente no. Assolutamente no, perché è stata 60 anni un po' travagliata, insomma, dopo tutto quello che ci è successo. Ci ha un po' spezzato la storia a metà, ma poi siamo ripartiti. Ma io non me l'aspettavo, perché quando sono partito con Augusto, che avevamo 16 anni, il nostro desiderio era quello di suonare nelle balere, perché da noi ce n'erano tante e ci si poteva divertire a suonare e a suonare anche le canzoni degli altri, degli altri cantanti, così, che non c'è niente di male, anzi è molto bello. E per cui che questo ci aspettavamo. Noi il successo non l'abbiamo mai cercato. Per noi il successo è il fatto stesso che siamo riusciti a vivere di musica. Lei ha detto che non avete cercato il successo, però il successo è arrivato da voi, vi ha cercato e vi ha raggiunto. Sì. Qual è il segreto? Ma io credo che la forza dei Nomadi è sempre stata la coerenza, perché non è che siamo i più bravi, neanche i più belli, per dire, ecco. Però siamo i più coerenti, sicuramente, su questo nessuno mi può smentire. La coerenza è sempre stata la nostra forza, abbiamo sempre creduto nelle canzoni che abbiamo interpretato, non ci siamo mai fatti condizionare. Il fatto di esserci dopo tanti anni e di aver interpretato canzoni che rimarranno, penso, ne sono certo, come nella storia della musica italiana, insomma, non è roba da poco. La musica è stata una forza per me incredibile, perché dopo la scomparsa d'Augusto quello che mi ha aiutato tanto è stata la musica, perché è una forma d'arte, anche se dicono che è un'arte povera la nostra, ma è sempre arte, questo è molto importante. Penso che la musica serva a tante persone, perché la musica, chi la fa e chi l'ascolta, è fondamentale. La musica che ti arriva al cuore è quella che ti fa star bene. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Ghelinzoni e Giorgio Berze, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.